GR24, il sole 24 ore. Influenza, altre due vittime a Napoli, attesa per l'autopsia sulla ragazza di 11 anni. Riforma della giustizia, se l'opposizione non ci sta, andiamo avanti da soli, dice Alfano. Dovevamo scuotere le coscienze, così il procuratore di Napoli, dopo le critiche di Maroni per la diffusione del video sull'omicidio di Camorra. I campionati dello strapotere nel calcio domina l'Inter, nel basket Siena e i tornei sembrano già finiti. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Prima di parlare dell'influenza A, una notizia che è appena stata diffusa dalle agenzie, che era in qualche modo attesa e riguarda l'Afghanistan. Dopo la rinuncia al ballottaggio da parte dello sfidante di Hamid Karzai, Abdullah Abdullah, oggi si è riunita la commissione elettorale che ha deciso a questo punto di annullare il ballottaggio e dichiarare l'attuale presidente afghano in carica, Hamid Karzai, vincitore delle elezioni del 20 agosto, che quindi Karzai guiderà il paese per un altro mandato. E adesso passiamo appunto a parlare di influenza A, perché ci sono due nuove vittime a Napoli. Ci colleghiamo in diretta col capoluogo partenopeo con Paolo Picone. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno. Allora, dopo quello di stamattina c'è ancora un altro morto a Napoli per l'influenza A, l'ottava vittima nel capoluogo partenopeo e la quattordicesima in Italia. Si tratta di una donna di 72 anni deceduta ieri all'ospedale Cardarelli di Napoli, la cui positività al virus è stata accertata oggi. L'anziana, secondo quanto emerso da fonti ospedaliere, era affetta da gravi patologie di tipo respiratorio. Intanto anche per la donna di 42 anni, morta questa mattina all'ospedale Cotugno, sarà l'esame autoptico a chiarire le cause della morte. La donna infatti, giunta all'ospedale dai Vicoequense, non aveva malattie pregresse. Saranno quindi i medici legali a cercare elementi per comprendere se la broncopolmonite che ha stroncato la 42enne sia legata al contagio da virus dell'influenza H1N1. Ad oggi il totale degli accessi al pronto soccorso del Cotugno per influenza A sono stati 2.005, mentre i test positivi al virus sono stati 852, ricoverati 153. Attualmente i ricoverati sono 43, di cui 5 in rianimazione. Prosegue anche l'inchiesta aperta dalla Procura sui troppi casi registrati a Napoli, con appunto 8 vittime sulle 14 totali in Italia. Sono stati acquisiti i risultati dell'autopsia fatta ieri sulla bambina di 11 anni deceduta al Santo Bono. Nessuna indiscrezione per ora dal Policlinico Universitario Federico II di Napoli, dove è stato fatto l'esame autoptico. E da segnalare infine la psicosi da influenza A che sta mettendo a dura prova il pronto soccorso proprio dell'ospedale pediatrico Santo Bono. Gennaro Ruoppo, del reparto di emergenza del nosocomio, lancia infatti un appello. Ascoltiamo. Invitiamo a non correre in ospedale, subito in ospedale. Ci intasate inutilmente. Chiamate i vostri medici curanti, avvaletevi della collaborazione telefonica dei medici curanti. Santo Bono fa il suo mestiere come sempre, però non ci intasate il pronto soccorso per problemi gravi. E arrivano altri aggiornamenti dal resto d'Italia. Ringraziamo intanto Paolo Picone da Napoli. 6 nuovi pazienti sono stati ricoverati per l'influenza A tra ieri notte e questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma. Tra questi c'è un adulto in rianimazione, per ora considerato caso sospetto, e una bimba in terapia intensiva che aveva già patologie pregresse. Nel frattempo sono ulteriormente peggiorate le condizioni della bambina bolzanina di 11 anni, ricoverata da una decina di giorni in rianimazione alla clinica universitaria di Innsbruck in Austria, appunto per l'influenza A. Dunque, l'epidemia influenzale ha davvero preso il via e rischia di correre più veloce della vaccinazione, che è partita a rallentatore, anche se secondo il vice ministro alla salute Fazio la consegna dei vaccini non è in ritardo. Adriana Fracchi ha intervistato Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, per fare un punto sulla situazione. La situazione è sostanzialmente quella che ci aspettavamo: col peggioramento delle condizioni climatiche e velocizzato dagli sbalzi termici, i bambini, che sono la miccia per queste infezioni ogni anno e ancor più in questo caso, hanno cominciato a diffondere. Non è solo virus influenzale A che circola, ma anche altri virus, però in questo momento tutto va a finire in un calderone unico che poi crea problemi e difficoltà. Quello che si vede è in effetti quello che statisticamente si sa anche per l'influenza normale, cioè la possibilità rara di complicanze, soprattutto nel soggetto a rischio, ma in qualche caso anche nel soggetto sano, che addirittura reagendo fino in eccesso può creare quella che ormai è ben nota essere la polmonite virale primaria. Per cui una situazione attesa che purtroppo vede andremo ancora a crescere nel prossimo futuro con il coinvolgimento più massiccio anche degli adulti. È importante non fare troppo allarmismo, la patologia di per sé non è grave nella grandissima parte dei casi, purtroppo tanti casi, e si deve procedere alla vaccinazione perché, come dicevo, siamo solo all'inizio della diffusione del virus. E cambiamo argomento, adesso parliamo del caso Marrazzo, il presidente della regione Lazio che si è dimesso nei giorni scorsi in seguito allo scandalo. Ci sono nuovi dettagli sull'inchiesta. Dalla droga al giro di soldi, dalla ricostruzione degli incontri alle modalità del ricatto, ancora tanti punti scuri nella vicenda Marrazzo, ma questa settimana potrebbe essere decisiva. Tra oggi e domani l'ex governatore dovrebbe essere ascoltato dagli inquirenti, dovrà spiegare con precisione se sapeva della cocaina nell'appartamento, se e per quali favori fu contattato dai quattro carabinieri che lo ricattavano e quanti soldi portava con sé il giorno dell'irruzione, compresa la storia dei due assegni mai incassati che avrebbe firmato. Intanto si aggiungono nuove rivelazioni. Brenda, uno dei trans frequentati da Marrazzo, parla di foto scattate all'inizio del 2009 in un appartamento del governatore. Dunque il ricatto potrebbe essere cominciato ben prima di luglio. Giovedì il tribunale del riesame dovrà decidere se rimettere in libertà i carabinieri arrestati. I quattro verranno sottoposti ad una serie di riscontri incrociati. Le loro versioni infatti contrastano. Da confermare anche le dichiarazioni del trans Nathalie, che parla di altre rapine e altri filmati realizzati dai carabinieri con clienti importanti. Alessandra Scaipisi, GR24, Sole 24 Ore, Roma. E proprio a come viene trattata questa vicenda da parte dei mass media è dedicato il nostro sondaggio di oggi. Sfilate di trans in TV, caccia i nomi e i volti noti possibili clienti delle varie Brendone e Nathalie, verbali, indiscrezioni, il caso Marrazzo si è trasformato in un immenso grande fratello dagli ingredienti a prova di successo di pubblico, politica e sesso. Ma non è che i mezzi di informazione stiano esagerando con la morbosità? Era questo il nostro sondaggio di oggi, il 74% di voi ha detto che sì, si è passato il limite. Non è d'accordo il direttore di Panorama, Giorgio Mulè. La caccia a qualsiasi schizzettino di fango l'hanno fatta i quotidiani, l'hanno fatta ogni giorno, si sono appostati sotto le case di fidanzati, di escort, di qualsiasi genere femminile che servisse a inseguire e superare il concorrente in questa caccia abbastanza vergognosa, devo dire, al gossip, e adesso anche abbastanza troppo facile dire fermiamoci e riflettiamo. Forse bisognava pensarci prima. Bianco o Nero torna domattina alle 8:30 per votare. Radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di rapporti tra stampa e politica, ci sono delle dichiarazioni che sono state diffuse poco fa del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, nell'ambito dell'intervista che gli ha fatto Bruno Vespa per il suo nuovo libro in uscita il 6 novembre. E Vespa gli chiede se Berlusconi pensa di poter rinunciare alle azioni contro Repubblica e l'Unità, e risponde Berlusconi che ho il dovere di tutelare non la mia persona ma l'istituzione che rappresento, e quindi di dice insomma non ritirerò le mie azioni legali nei confronti dell'Unità e di Repubblica. Parla anche della situazione all'interno della maggioranza Silvio Berlusconi, esclude che Fini o Bossi pensino ad una crisi, e comunque sia, se cambiasse la maggioranza si dovrebbe andare al voto anticipato. Parliamo del video shock, quello dell'uccisione di Mario Bacio Terracino a Napoli, un video necessario per scuotere le coscienze dei napoletani. I frutti sono che ora il killer è stato identificato ed è ricercato, lo dice il procuratore della Repubblica di Napoli, Gian Domenico Lepore, rispondendo ai dubbi del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, per il quale il video invece non andava diffuso. Sentiamo il procuratore Lepore al microfono di Cristina Carpinelli. Bisognava, a parere nostro, purtroppo smuovere un poco le coscienze della gente, tenuto conto del lungo lasso di tempo che era trascorso dall'omicidio e nessuno si era fatto avanti. D'altra parte è servito come a rimettere in moto un poco la coscienza dei napoletani sul rispetto o meno della morte. Infatti c'è a Napoli un grande dibattito, critiche e pareri favorevoli, il che è sempre buono dal punto di vista degli avvenimenti. Lei comunque sta chiedendo rinforzi, no, per contrastare la criminalità e la camorra. Non è soltanto un problema mio, è di tutta la magistratura in genere, di tutti gli uffici giudiziari, perché per ragioni di bilancio si sono ridotti i finanziamenti a tutti i ministeri, però la lotta alla criminalità organizzata e non richiede personale e mezzi, e che invece di essere di aumentare purtroppo stanno diminuendo per ragioni di economia. E allora o si investe nella sicurezza e nella giustizia o non si investe. Parliamo di un anniversario adesso. Il 9 novembre di 20 anni fa crollava il muro di Berlino. Da oggi fino a lunedì prossimo Radio 24 vi porta lungo il vecchio confine della capitale tedesca. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Berlino, oltre il muro. Davanti ad una Trabant lucidata per giri turistici, un operaio ammette quello che a Berlino molti pensano ma pochi confessano. Es gibt immer noch Ossis und so wie andersrum auch, es gibt immer noch die Wessis. Ci sono ancora quelli dell'est e quelli dell'ovest, dice, perché 20 anni dopo la caduta il muro è ancora nella testa di molti, almeno tra quanti alla sua ombra hanno vissuto. Ad Alexanderplatz, superate le trivelle di un cantiere, foto in bianco e nero rievocano il giorno che cambiò le sorti del mondo, mentre i fischietti di un gruppo di disoccupati quasi coprono via Sindasfolk, Noi siamo il popolo, l'inno delle folli di allora diffuso da un altoparlante. Quella notte dell'89 ho colpito anch'io il muro, ci racconta Jürgen Lottenburger, ex cittadino della Berlino Est, ex vittima della Stasi, ex lettore di opere proibite al di là della cortina. Lavorava come tipografo e dopo 3 anni di controlli nell'83 ottenne il permesso di passaggio ad ovest con la vita messa in 2 valigie. Di là, dice, per leggere libri di autori occidentali andavo alla fiera di Lipsia o me li regalavano i giornalisti, così come i dischi rock. Quel 9 novembre Jürgen colpiva il muro e scattava foto, inebriato di libertà, ricorda ora, davanti ai pannelli dove quegli abbracci sono ormai pezzi di storia. Dopo i festeggiamenti e i cambiamenti, ammette, tanti miei amici rivorrebbero quella sicurezza della DDA, ma come antidoto contro l'ostalgie tira fuori 2 pezzi di muro che ci regala. Rosso, quello dell'ovest, bianco, quello dell'est, perché noi, nota, non potevamo neanche decorarlo, il muro. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore, Berlino. E vi ricordo questa sera dopo il GR delle 21 in onda il reportage di Radio 24. In 2 storiche sale italiane, il Messico di Milano e il Cinema Lumière della Cineteca di Bologna, questa sera un documentario dedicato a Demetrio Strato su una vita brevissima che ha rivoluzionato il concetto della voce. Prima di lui c'era il bel canto e la voce umana con dei limiti anche fisici. Lui, Demetrio Stratos, rivoluzionò tutto. Il processo vocale è questione di capacità mentale, cioè di capire come funziona il parlo. A Stratos, scomparso 30 anni fa, giovanissimo, per una grave malattia, è dedicato il documentario La voce Stratos di Monica Affatato e Luciano D'Onofrio. La sua missione è stata quella di esplorare i limiti della voce. Tutto questo lavoro faceva parte di un contesto che è quello soprattutto della Milano degli anni 60-70, che era molto interessante da esplorare. Il tipo di lavoro che faccio io non si basa assolutamente sulle capacità canore, è uno studio per scoprire nuove tecniche che possono essere utilizzate da tutti. Veramente un personaggio di altissimo livello dal punto di vista musicale come ricercatore, però aveva un'assoluta umanità ed era in grado di confrontarsi con chiunque e a chiunque voleva spiegare il suo lavoro. Non era un lavoro elitario, non l'aveva mai considerato tale. Tutte le date delle prossime proiezioni al sito lavocestratos.blogspot.com. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato di influenza A, abbiamo parlato del caso Marrazzo e abbiamo parlato ancora una volta del video shock della Camorra. Adesso sull'omicidio di Camorra, adesso ci occupiamo di giustizia. Dopo le aperture dei giorni scorsi, oggi il ministro Alfano ha chiarito, se necessario si va da soli. In diretta da Montecitorio, Elisabetta Fiorito. Elisabetta. riforma della giustizia anche senza l'opposizione, proprio così Simone, il guardasigilli Angelino Alfano torna a parlare della revisione della carta costituzionale, soprattutto per quanto riguarda la giustizia. Non so se c'è la possibilità di un'intesa con l'opposizione, noi non la rifiutiamo, ma sentiamo Alfano. Ricercheremo una forma di consenso con l'opposizione, però abbiamo anche un dovere etico, quello di fare ciò che si è detto di voler fare durante la campagna elettorale e quindi di mantenere gli impegni assunti. La maggioranza è quindi pronta ad agire da sola, le riforme sono destinate a durare in più nel tempo se vengono fatte con l'opposizione, precisa Alfano, ma dobbiamo superare la paralisi, replica l'opposizione. Per Anna Finocchiaro, il Partito Democratico attende di conoscere le proposte e i testi del governo, perché sulla giustizia ci sono state fatte fino ad oggi solo frasi generiche e la solita propaganda. Finocchiaro rifiuta poi la proposta della prescrizione a breve. Per il momento qui da Roma è tutto a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Il Ministro della Giustizia ha parlato anche del caso di Diana Blefari Melazzi, la brigatista che si è tolta la vita ieri in carcere impiccandosi. Alfano replica le polemiche, dice che secondo i giudici le sue condizioni appunto erano compatibili con il carcere. Su questa vicenda naturalmente si continua ad indagare. Sarebbe stata pronta a collaborare con la giustizia e sabato, poco prima del suicidio, Diana Blefari Melazzi aveva incontrato gli investigatori. A loro avrebbe dato la sua disponibilità a parlare del ruolo di Massimo Papini, il neobrigatista arrestato il 2 ottobre scorso dalla Digos. Dopo il colloquio le sarebbe stata notificata la sentenza della Cassazione che la condannava definitivamente all'ergastolo per l'omicidio Biagi. Sarebbe stato questo a spingerla a togliersi la vita, impiccandosi con le lenzuola nella sua cella nel penitenziario romano di Rebibbia. Un suicidio annunciato, secondo i suoi avvocati, che da anni sostenevano che le sue condizioni non erano compatibili con la vita in carcere a causa di una profonda depressione e più volte avevano chiesto di trasferirla in una struttura dove curarla. Oggi uno di loro, l'avvocato Spigarelli, su richiesta della famiglia ha rivolto un appello alle istituzioni chiedendo di fare piena luce sulle responsabilità che hanno portato al suicidio dell'ex brigatista. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questo caso, il caso di Diana Blefari Melazzi, insieme a quello di Stefano Cucchi, il ragazzo di 31 anni morto dopo una settimana di carcere, riportano l'attenzione appunto sugli istituti penitenziari italiani, l'attenzione della politica. Vicende diverse e quanto mai lontane tra loro, ma i casi della Blefari e del giovane morto sempre a Roma in circostanze ancora da chiarire riaprono il dibattito intorno al mondo delle carceri. Su entrambi i casi il governo vuole che si faccia luce e fa sapere il guardasigilli Alfano, in particolare domani il ministro riferirà in Senato su Cucchi. Sulla neobrigatista invece il titolare di Via Arenula rimanda per il momento ai magistrati competenti. Dalle forze politiche si chiede chiarezza ed interventi sostanziali per il mondo carcerario. I numeri diffusi dalle organizzazioni che operano per aiutare chi è dietro le sbarre parlano chiaro: 60 suicidi dall'inizio dell'anno, 10 casi al giorno di autolesionismo, 1.365 morti per cause varie dal 2000. Ad alimentare ulteriori tensioni c'è poi il sovraffollamento, ad oggi 65.000 detenuti contro una capacità di 43.000. Il sovraffollamento, dicono dal Partito Democratico, incide negativamente sui detenuti, sugli agenti, sull'intera macchina dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia. Da Palazzo Chigi si replica: arriverà in tempi brevi un nuovo piano carceri per 20.000 nuovi posti. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo all'estero con il nuovo attentato che c'è stato questa mattina in Pakistan. Il terrorismo è tornato nuovamente a colpire il Pakistan in guerra contro i talebani. Questa volta è toccato a Rawalpindi, la città dove hanno sede i vertici delle forze armate e che sorge a pochi chilometri dalla capitale Islamabad. E qui, in quella che almeno in teoria dovrebbe essere la città più sicura del paese, che questa mattina un attentatore suicida a bordo di una motocicletta si è fatto saltare in aria davanti a una banca, uccidendo almeno 34 persone, tra cui molti dipendenti pubblici in coda per ritirare lo stipendio. L'esplosione è avvenuta a poche centinaia di metri dal quartier generale dell'esercito e abbastanza vicino allo Shalimar Hotel da danneggiare uno dei due principali alberghi della città. Con l'attacco di oggi sale a oltre 300 il numero dei morti da quando i talebani hanno iniziato a rispondere all'offensiva militare del governo nelle regioni tribali del South Waziristan, un quadro in continuo peggioramento che da una parte ha spinto le Nazioni Unite a richiamare i propri funzionari dalle regioni nord-occidentali del paese e dall'altra ha convinto il governo a mettere tagli per complessivi 5 milioni di dollari sulle teste di una ventina di comandanti talebani. Marco Masciaga, GR24, Sole 24 Ore, New Delhi. Siamo in chiusura e passiamo allo sport. Siamo solo all'inizio di novembre e i due campionati italiani più seguiti, quelli di calcio e basket, sembrano già finiti. Chi fermerà anche quest'anno Inter e Siena? Fatto. già fatto. I campionati di A di calcio e pallacanestro di questa stagione ricordano tanto le punture ai bambini del notissimo spot. Neanche il tempo di accorgersene e sono già finiti. Scudetto è fatto, insomma. Inter e Montepaschi Siena ancora loro, sempre loro. Le cannibali di questo inizio millennio. Dopo 11 giornate nella Serie A del calcio, l'Inter è visibile solo col telescopio. Più 7 su Juve e Sampdoria, 9 successi nelle ultime 10 partite, mentre le altre si inceppano a turno. Più le 28 reti che ne fanno il miglior attacco. Dopo 4 scudetti consecutivi, il quinto sembra a portata di mano. Nel basket Siena, ma siamo solo alla quarta giornata, ha ancora la compagnia di Avellino in vetta. Però Roma e Bologna sono già alle spalle e l'ultima rivale scudetto, Milano, ieri è stata asfaltata dai toscani per la 14ª volta consecutiva. Quarto titolo di fila praticamente già scritto. Due caterpillar, insomma, ma costruite in modo diverso. Se l'Inter, con un allenatore carismatico e già affermato come Mourinho, può andare sul mercato ogni stagione a scegliersi nuove stelle, quest'anno Eto'o e Milito, la MPS, affidata a un tecnico cresciuto in casa come Simone Pianigiani, al gruppo storico unisce ogni anno una pedina in più. L'anno scorso Domer Kant, quest'anno Hawkins. Per entrambe, però, i risultati in Europa non sono all'altezza di quelli straordinari ottenuti in Italia. Finora il trionfo in Champions League ed Eurolega è stata una chimera. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Ceci e con in regia Pietro Lacorte. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.